vostri soldi su una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Mi sento un po' una groupie questa mattina perché ho davanti a me due vere e proprie rock star, è il caso di dirlo. Ma grazie Deborah, spieghiamolo però agli ascoltatori, allora, e anche a chi ci segue sulla pagina Facebook, esatto, Due di Denari Radio 24. Che potranno vedervi in tutta la vostra famositudine. Ah, assolutamente. Allora, Mauro Meazza e Marco Lo Conte. Buongiorno. Eccolo qua, non solo il nostro esperto di fondi pensione laureato in previdenza, sì, in perché noi ogni giorno praticamente ne laureiamo uno di collega Marco, ma sono praticamente anche i due terzi dei Chapter 11, glorioso gruppo musicale, sì, delle sì, Sole 24 famoso Ore. Famoso per avere inaugurato questa corrente del pop economico, esatto, tributario. E siete stati protagonisti anche del palinsesto estivo di Radio 24 con la vostra strepitosa Serpente Corallo, che è stata la trasmissione appunto più seguita in assoluto di tutta, sì, l'estate. Dove parlavamo di truffe finanziarie, invece questa mattina no, parliamo di investimenti seri, anche perché io volevo presentarmi con un regalo per te questa mattina. Davvero? Deborah, sì. È la prima volta in neanche due settimane di lavoro insieme. Tu che sei così giovane, volevo portarti un bond a 100 anni, una cosa austriaca fatta quindi con perizia, e puoi tranquillamente aspettare 100 anni, nel 2117 potrai rientrare del tuo investimento, riscuotere il capitale. Guarda, dato il trend anagrafico che c'è nel nostro paese, io mi aspetto anche di essere ancora davanti a questi microfoni in quel periodo e porterò a scadenza naturale questo Matusalem bond austriaco. Non mi renderà tanto, da quello che capisco. Mi pare che, ecco, scriviamo oggi sul Sole 24 Ore, lo scrive l'ottimo Vito Lops, che c'è un rendimento monster del 2,1%, e che vuol dire che, tolta l'inflazione, insomma, ci resta in tasca forse uno 0,1, uno 0,2. Allora, questa tendenza dei rendimenti sempre più schiacciati dei titoli di Stato ormai è cosa nota da molto tempo, e peraltro abbiamo visto anche delle notizie interessanti a proposito delle ultime emissioni del Ministero dell'Economia, quindi del Tesoro italiano. Ieri sul mercato sono andati 8 miliardi di BTP a scadenze diverse, e anche noi abbiamo i nostri problemi perché quello a 3 anni praticamente rende lo zero. 2 giorni fa un'altra asta di bot ad 1 anno hanno registrato ancora una volta, sono già tipo 30 aste che il rendimento va in negativo appunto di questa scadenza, ed è confermata meno 0,32%, qualcosa del genere, per cui tu porti al Ministero dell'Economia, al signor soldi, Padoan, 1.000 euro, e lui fra un anno quanti te ne ridà? Uno 0,32% in meno, esatto, uno 0,326% in meno. Ti metto anche un biglietto di ringraziamento. È una cosa misteriosa, se siete in grado di spiegarmela oggi, tu e il nostro ospite, allora, che abbiamo, guarda, al telefono. Casualmente ho interpellato un ospite questa mattina per spiegarci tutto ciò. Alessandro Aldrovandi, analista finanziario di strategieditrading.it. Buongiorno, benvenuto e grazie. Buongiorno a tutti. Allora, noi facciamo sempre un po' i simpatici, ma in realtà nel nostro spazio del giovedì, in particolar modo Investire Informati, che ci sarà anche oggi, fra un po' lo lanceremo, oggi ci occuperemo di fondi pensione, non abbiamo fatto tutto il sommario con Mauro, ma lo anticipo già ai nostri ascoltatori perché, Mauro, ci sono delle novità importanti della legge concorrenza. Esattamente, sì. Facciamo, dicevo, i simpatici, ma in realtà questa è ormai una tendenza consolidata da diverso tempo, rendimenti sempre più schiacciati per i titoli di Stato, e se come per gli esperti questo è un tenore spiegato da tutta una serie di ragioni finanziarie e macroeconomiche, in realtà per il piccolo risparmiatore questo è uno scenario ancora incomprensibile. Infatti le aste dei titoli di Stato italiani sicuramente ci vanno gli investitori istituzionali, ma sono ancora molto partecipate anche dal piccolo risparmiatore. Cosa c'è da dire a proposito delle ultime operazioni del Ministero dell'Economia, Aldrovandi? Sì, in effetti hanno un po' sorpreso ancora negativamente queste aste, soprattutto per quello che riguarda i bot, dove c'è stata addirittura una domanda che è stata doppio rispetto all'offerta, 12 miliardi contro solo i 6 che sono stati allocati dal Ministero del Tesoro. Certo, non dobbiamo lasciarci ingannare, perché comunque i privati e le aziende che partecipano a queste aste, quindi che chiedono bot, sono molto pochi. Parlavo anche con degli operatori economici, sia nelle direzioni generali ma anche allo sportello. Effettivamente sono molto molto pochi, e per ragioni anche molto diverse, lontane dall'investimento e dal risparmio, per fortuna. Partecipano solo banche, sono principalmente banche italiane e estere, le principali, e per allocare la loro liquidità. Ora, ragioni di tesoreria, come si dice. Sì, per tesoreria. Poi perché lo facciano, ci sono tre motivi. Ecco, forse può essere interessante questo, perché questo può avere anche un riscontro, una ricaduta sui privati e sui risparmiatori. Se vogliamo essere ottimisti, può essere che le banche vedano una ripresa economica e quindi si facciano prestare soldi dalla BCE per erogare credito ai privati e alle aziende, e per richiedere prestiti alla BCE, richiede alla Banca Centrale Europea, richiede delle garanzie, che possono essere questi bot. E c'è anche da tenere presente, questa è la parte più simpatica, è che le liquidità in eccedenza che hanno le banche e che devono obbligatoriamente depositare presso la Banca Centrale Europea costa alle banche lo 0,40, cioè sono remunerate con un tasso di meno 0,40. Esattamente. E quindi probabilmente comprare dei bot e quindi essere remunerati con meno 0,30, tutto sommato è un conveniente. Guadagno. Esattamente. Cioè, quindi ci questa si perde può un po' meno. Si perde un po' meno, sì, in effetti è paradossale, ma è proprio così. Altrimenti credo che seriamente la motivazione sia tecnica, nel senso che nel mese di agosto e anche l'ultima quindicina dei giorni di luglio siano saltate diverse aste di titoli di Stato e quindi molta liquidità che le banche avevano, che dovevano reinvestire, in realtà non siano state appunto allocate, ci sia dato appuntamento tutta la prima asta di settembre, ecco, perché è tanta domanda, ma di per sé non è una grossa notizia. Il problema è il fatto che gli investitori, gli risparmiatori non sappiano come poter avere un rendimento dei propri risparmi anche in modo sicuro, quindi senza rischiare troppo, effettivamente c'è da qualche anno e porti inevitabilmente l'investimento sull'azionario. Mauro, tu volevi sapere qualcosa, sì, a proposito dell'operazione austriaca, che dici? L'ho fatto studiare Aldrovandi stamattina. Sì, perché effettivamente mi incuriosisce non solo appunto questa cosa dei rendimenti negativi che adesso lei ci ha spiegato, naturalmente una questione che riguarda molto gli istituzionali, però mi sembra che anche questi bond di lunghissima durata, li chiamano Matusalem bond, appunto bond Matusalemme, siano dei prodotti che per i piccoli risparmiatori, insomma per la gente come me, non sono tanto adatti, certo. Presentano un po' troppi rischi, è così? Assolutamente sì. No, ma guarda, sono più uno strumento di colore ogni tanto c'è questa emissione, una nota di colore direi nell'ambito della finanza operativa. Negli ultimi 15 anni che io ricordo che abbia visto, ne hanno fatto ogni tanto 5 o 6, ma non hanno mai avuto alcun successo. Lo scopo iniziale, l'idea iniziale brillante di diversi anni fa, quando qualche emittente sia governativo ma anche addirittura aziendale, quindi ancora più paradossale, perché un'azienda uno Stato ci sarà sempre, un'azienda invece non lo possiamo sapere, è nato dal fatto che c'è stato in passato, se vi ricordate, una forte relativa speculazione sui titoli di Stato trentennali, che per la loro struttura, per il tempo lungo e per i tassi di interesse, non dico che si poteva fare trading, ma quasi, potevano comprare e vendere proprio per il fatto di avere grosse oscillazioni. E quindi si è pensato, ma perché non enfatizziamo questa cosa e facciamo il bond a 100 anni, Matusalemme, proprio come viene detto. Sì. In realtà questa enfatizzazione non c'è mai stata, le emissioni sono state veramente molto basse, piccole size, piccole misure, quindi ricordiamo che anche tutti. Il Tesoro italiano lo scorso anno è andato sul mercato con un titolo a 50 anni, ma qua l'obiettivo del governo italiano è quello di allungare la scadenza, la durata del nostro debito pian piano con delle operazioni ogni tanto nuove. Ieri c'è stato anche il nuovo benchmark a 7 anni, per cui poi ecco, ogni Stato ha anche le sue ragioni, no, domestiche. Sì, sì. Certamente sì, beh, che la tendenza degli Stati sia quella di consolidare il debito e quindi di allungare le scadenze, sì, ma sarebbe già un successo passare dai bot e i CTZ ai BTP e poi ai BTP lunghi, ma questo veramente non ha molto. I Matusalem, insomma, ripeto, sono più una caratteristica, ma non caratteristica, un folklore. Viene da dire, esatto, un folklore finanziario, esatto, quasi. Insomma, 100 anni sono tanti. No, tra l'altro questi titoli di Stato servono probabilmente anche al secondo tema che faremo dopo, che affronteremo dopo, perché magari anche i fondi pensione, per l'obiettivo che hanno una piccola parte del loro portafoglio investiti in questi titoli. No, Marco Loconte mi guarda, dovrebbero. Tienti questo tema lì, l'ultima domanda ad Alessandro. Questa la so, la sai? La ah, guarda che il domandone noi ce l'abbiamo, lo vinci tu stamattina. Vediamo. Aldrovandi, altro tema della giornata. Grazie intanto per la modalità molto chiara con cui ci ha spiegato appunto i passaggi precedenti. Un altro tema di giornata molto importante è la riunione della Bank of England. Noi siamo ossessionati dal comportamento delle banche centrali da molto tempo a questa parte. Oggi teniamo sotto osservazione quello che si farà appunto a Londra, perché ci si aspetta qualche orientamento, se non addirittura un intervento sui tassi di interesse, visto che sta riprendendo quota la sterlina, che era letteralmente precipitata dopo Brexit, e sta piazzandosi sui massimi da oltre un anno rispetto al dollaro. Ha ripreso quota anche l'inflazione nel Regno Unito. Qual è lo scenario che si delinea secondo voi operatori? Sì, siamo molto indecisi, devo essere sincero, perché direi che i tassi di interesse dovrebbero rimanere invariati secondo le decisioni della Bank of England, e quindi lo 0,25 confermati. E poi il problema sono i verbali, ormai non sono più neanche tanto le decisioni sui tassi, ma in realtà i verbali, quello che si dicono fra loro, i voti ai favorevoli, e chi è favorevole a un certo tipo di politica monetaria, chi è favorevole al suo contrario. Quindi sarà più interessante la conferenza stampa o la comunicazione e la messa a disposizione al pubblico dei verbali della riunione precedente, quindi arriviamo sempre più in ritardo. In realtà la mia personalissima opinione è che, e anche quella di alcuni miei colleghi, è che loro stessi non abbiano la più pallida idea di cosa fare. E questo è un po' più grave. Esatto. È un grande punto di domanda. Tutti hanno delle certezze, ma in realtà il futuro non lo può sapere assolutamente nessuno. Certo. Grazie. Grazie Aldo Romandi. Una battuta poco felice dice che l'economista è quello che ti spiega tutto dopo che è successo, però. E quindi potremmo dire che forse il banchiere centrale è quello che ti spiega tutto dopo che è successo, ti spiega anche l'effetto delle sue decisioni. È stata forse una grande lezione di questa crisi, no? Nelle modalità in cui si è manifestata, nessuno aveva previsto granché, ma basti ricordare la Brexit, appunto, le elezioni di Trump e tutto anche il contorno politico che abbiamo avuto. Tra l'altro non abbiamo mai raccontato, non ci siamo mai soffermati adeguatamente in questi appuntamenti di mercato che facciamo, Mauro, nel nostro programma. Adesso arrivano anche le elezioni tedesche, no? Nei mesi passati ogni appuntamento elettorale era lì che condizionava il mercato in maniera molto significativa. Adesso sembra che invece non stia succedendo niente con le tedesche che arrivano, ma anche quello è un test importante. È una cosa importante, però mi pare che lì lo scenario elettorale sia un po' più chiaro rispetto a quello, esatto, che abbiamo visto ad esempio in Francia. Diciamo che lì la parola delineato. Stabilità... Sì, ha un significato forte, esatto. E quindi su quello mi pare di cogliere meno apprensioni rispetto a quello che era successo con la Francia. Vedremo con le nostre nel 2018 invece che cosa succederà. Ci poi per i mercati. Ci divertiremo l'anno prossimo. Allora, grazie ad Alessandro Aldrovandi per essere stato con noi. Peraltro stavo guardando anche alcuni messaggi dei nostri ascoltatori. C'è un amico che ci scrive: da giorni giro per banche per investire dei soldi in un investimento sicuro, mi dicono che il conto di deposito non lo fanno quasi più. Ed è vero, magari, Marco, nel senso che sì, lo fanno, ma praticamente è esattamente come trasferire in un altro conto corrente i tuoi soldi, perché sì, non rendono più nulla. Il conto di deposito è un conto senso, molto simile al conto corrente, diciamo. Il tasso di interesse è modesto, molto modesto. Sì. Anzi, se è particolarmente elevato rispetto alla media, allora fate un piccolo check-up alla banca che ve lo propone. Potrebbe esserci, come dicevamo quest'estate, il serpente corallo. Sì. Eccolo là. Se vi promettono cose troppo mirabolanti, fate attenzione. Per evitare brutte sorprese è fondamentale fare confronti, guardare le diverse offerte, capire il mercato complessivamente che cosa offre e poi compiere una scelta conseguente. Fermarsi alla prima offerta può essere estremamente deleterio per i propri risparmi. Non vorrei però dire troppo rispetto al nostro approfondimento del giovedì, perché va adeguatamente presentato con la sua sigla. Investire informati. Allora, Mauro, dillo a microfoni aperti, mi stavi dando una segnalazione. Ti stavo dicendo, di cara Debora, che dobbiamo ricordare come sempre i nostri ascoltatori che possono scriverci, telefonarci, mandarci delle email, degli sms, dei messaggi WhatsApp. Segnali di fumo, piccione viaggiatore, guardarci quello su che Facebook, esatto, tutto quello che volete, ma insomma contattateci, lo state già facendo. Allora ricordo per tutti quanti, sms e WhatsApp a questo numero, 349-238-6666, oppure se volete chiamarci 800-24-0024, e se volete mandarci un'email, perché no, 2 di denari